con Roberto Festa ha alcune cose da raccontare della notte. Siamo tornati a casa intorno alle 3:30, pochi minuti dopo abbiamo sentito dei cori, come cori di stadio, come cori di esultanza, frasi come abbiamo spaccato il culo, e a un certo punto i cittadini di Genova, quelli pochi rimasti, sono usciti e hanno cominciato a urlare assassini, basta, andatevene. Noi abbiamo presunto che si trattasse di poliziotti o comunque forze dell'ordine che ieri sera erano tutti in licenza, ormai gli hanno dato la licenza dopo la settimana, molti erano nei bar, nei caffè, nei pochissimi caffè aperti ieri notte. Abbiamo un altro collegamento con un avvocato del Genoa Social Forum. Sono entrati anche nella nostra sede legale. E questo è importante dirlo, c'erano 5 computer nella nostra sede, 2 certo. Venivano usati dai media, 3 dagli avvocati, hanno distrutto soltanto i computer degli avvocati, hanno portato via gli hard disk e i dischetti, hanno portato via le liste degli arrestati che avevamo compilato con molta fatica. Pare che manchino all'appello, diciamo, 200 persone. No, allo stato attuale ne mancano 400 persone, ci chiamano persone che hanno visto i loro amici manifestanti fermati, ci chiamano quelli che hanno visto portare in ospedale, ci chiamano persone che non hanno più notizie dei loro amici o dei loro figli, persone che sono 3 giorni che non riescono a dare notizie di sé, che non sanno di avere una tutela legale. Grazie a questa storia di questi neri sono riusciti a livello mediatico a far passare tutti come criminali. Ora, se quel ragazzo che è uno dei neri dichiara di essere un compagno, è libero di farlo, lui ritiene di essere un compagno, comunque non è un compagno mio, e se alle manifestazioni riesco a beccare di questi qua, io questi non li faccio entrare nella manifestazione, vogliono scontrarsi con la polizia, che si scontrino, poi però stanno lì, non è che se ne vengono dentro e la polizia lancia i lacrimogeni a me. Ascolta, mi chiamo Franca, chiamo da Milano, io spero che sia ancora in ascolto quello che un'oretta fa ha detto: sono un compagno come sono compagni quelli dei Black Bloc. Sì. Io sono una compagna e ho pianto anch'io ai funerali di Edo e Sole, però ho avuto paura anch'io al corteo e non sapevo se potermi fidare di quelli che chiamo ancora compagni, non lo sapevo. Per favore, se tu stesso dici ci possono essere degli infiltrati, bisogna isolarli, bisogna stare attenti. E a questo punto non ci illudiamo, compagni e compagne, di potercela fare trincerandoci dietro il nostro antagonismo totale. La rabbia è giusta. Adesso abbiamo bisogno di Radio Popolare, abbiamo bisogno degli avvocati, abbiamo bisogno dei medici, abbiamo bisogno della gente normale di Genova che ci ha ospitato nelle case. Faccio un appello ai compagni che ancora adesso pensano di poter essere tranquilli e sicuri perché hanno i bastoni in mano, a riflettere e a ragionare col cervello. Quelli con i bastoni in mano io li voglio davanti insieme a me a fare cordone contro la polizia, non dietro di me a far casino. Io a un certo punto mi sono dovuta autotutelare, mi sono dovuta andare con quelli delle ACLI che mi hanno aiutato a ritrovare la strada perché mi ero persa. Però io faccio anche un appello ai compagni che permettono le infiltrazioni, non è possibile. Le dichiarazioni anche di funzionari dei sindacati di polizia, che ci sono anche brave persone, per l'amor di Dio, ma e dei politici del governo e purtroppo di gran parte dell'opposizione, parlo dell'Ulivo, non di Rifondazione dei Verdi, cioè sono di una banalità estrema. Io ho la terza media, cazzo, ma ste cose qua, io ragionavo così neanche quando avevo 5 anni e ero all'asilo. C'era il primo canale di Genova che faceva vedere tutte le immagini dall'elicottero. Ma cazzo, bastava dare un'occhiata per vedere che era una cosa combinata, sti qua dei Black Bloc, come cazzo si chiamano. Il Presidente della Repubblica, dopo il 13 maggio, ha detto abbiate fiducia nel futuro. Cazzo, sono passati 2 mesi, figuriamoci fra un anno. Questo sabato pomeriggio? Sabato pomeriggio verso le 6. Ti ricordi che zona eri? Sì, zona Montallegro. Ci sono stati 2 gipponi che sono arrivati verso l'alto e in un vicolo strettissimo dove ci passavano a malapena sono partiti nel tentativo di fuga. A un certo punto noi siamo scappati, eravamo in 3. E di fatto questi si sono fermati, hanno iniziato a pestare la gente che si era buttata contro il muro per non essere investita. A un certo punto io sono intervenuto per difendere la mia ragazza che era rimasta più indietro, sono stato pestato brutalmente e questi a un certo punto hanno smesso il pestaggio, sono risaliti sui gipponi. Noi nel frattempo ci siamo spostati un pezzettino più avanti per cercare di buttarci in un terrapieno che c'era sotto, un 3 metri più sotto, che era di un ospedale, una cosa del genere. Il primo gippone ha aperto la portiera a tutta velocità e mi ha preso dentro cercando di scaraventarmi sotto. Io quando sono sceso avevo tutta la testa rotta, braccia sanguinanti, mi sono sdraiato su questo terrapieno, è intervenuto un infermiere di questa casa di cura e niente, in quel momento sono ritornati, mi hanno puntato un fucile dall'alto e questo mi diceva alzati o ti sparo, alzati o ti inchiodo lì secco dove sei. Io ho tentato di rialzarmi ma già lì mi girava un po' la testa. L'infermiera è intervenuta, questa donna, e diceva stai giù perché altrimenti ti spara, stai giù. A un certo punto è intervenuto anche un medico, penso il capo medico, che si è messo tra questo poliziotto armato di fucile noi e ha cercato di dissuaderlo da questo suo intento. Voglio dire, i Black Bloc erano, cioè parlare di infiltrati, di regia occulta, erano tutti di nazionalità diversa, ce n'erano di tedeschi, di spagnoli, di greci, cioè voglio dire, sarebbe proprio un disegno a livello strategico europeo di tipo militare a questo punto. Però voglio dire, i Black Bloc si erano già visti all'opera anche a Göteborg e a Praga. Se questo è il governo di destra, bisogna anche noi prepararsi a livello militare a contrastare le varie iniziative. No, non credo, quindi... non credo che sia proprio questo il messaggio che venga fuori in realtà. Con la carretera, cammino sin perdono.